Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 15 febbraio 2015. Nelle case di riposo toscane trionfa il menù a chilometro zero. Oramai è un'abitudine non solo toscana, ma qui sono partiti per primi e ora si godono il primato. In quasi tutte le strutture di ristorazione delle 377 case di riposo toscane, riconosciute come RSA, la dieta a chilometri zero è una realtà. Frutta e verdura di stagione, latticini, uova e carne di provenienza locale sono una costante nei menù. La regione, che ha lanciato questa tendenza nel 2012 con l'approvazione delle linee guida del settore, ha successivamente approvato un'analoga normativa d'indirizzo anche per le mense scolastiche. Anche tra gli scolari di Massa o Grosseto sta quindi diventando un'abitudine pranzare con prodotti a filiera corta. Fin qui la notizia del 15 febbraio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Da qualche settimana infatti la Giunta regionale toscana ha varato per la prima volta le linee guida per la ristorazione assistenziale. Dieta varia, frutta e verdura fresca e di stagione, filiera corta, cucina con il toscanissimo olio d'oliva, pranzi consumati in compagnia e in un'atmosfera familiare. L'assessore regionale al diritto alla salute è Daniela Scaramuccia. Noi abbiamo lavorato sulle linee guida che vengono da un accordo Stato-Regioni per l'alimentazione delle persone anziane, tentando di adattarle a una realtà toscana e tentando di valorizzare il più possibile quelli che sono i prodotti non solo tipici toscani, ma anche, come dire, a filiera corta, a chilometro zero. È sicuramente un tema su cui stiamo lavorando, che stiamo iniziando a lavorare anche per le mense e delle nostre strutture pubbliche, perché insomma ci crediamo per la freschezza dei prodotti, per l'impatto ambientale e poi anche per la valorizzazione dei prodotti territoriali. Anche per garantire l'applicazione di queste linee guida esiste una commissione, che è la commissione di valutazione regionale delle nostre residenze sanitarie assistite, in questo caso delle RSA, che va ovviamente e monitora, quando fa la valutazione delle strutture, tutta una serie di indicatori. Tra gli aspetti che andrà a valutare ci sarà anche appunto l'alimentazione e l'applicazione di queste linee guida, che per il momento non sono più vincolanti, ma sicuramente faranno parte della valutazione complessiva della struttura. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.